Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Buona domenica da Federico Taddia e ben ritrovati ai Padri Eterni. Sono emozionato, sono personalmente emozionato perché rientro in radio dopo tre mesi di trasmissioni nel remoto, come vi abbiamo raccontato ogni settimana. Sono solo qua in studio oggi perché insomma stiamo riprendendo anche noi i nostri ritmi, ma ovviamente in collegamento c'è anche Matteo Bussola. Ciao Matteo, buona domenica. Ciao Fede, buona domenica a te. Eccoti al telefono. Sai che mi manchi, devo dirti la verità, che ormai a casa mia mi ero abituato che non c'eri, ma qui in studio non averti, potrei avere una sagoma. La settimana prossima, se non ti presenti, metto la sagoma di Matteo Bussola. Ciao, ma presto ci ricongiungeremo, Fede. Ma sai, io pensavo poi, proprio in questi giorni, no, a quanto sia bella questa cosa che la radio alla fine non la ferma niente. Noi, come tu dicevi prima, ci siamo collegati a lungo da remoto. Oggi io sono al telefono perché insomma non sono riuscito ad arrivare e la linea internet di casa aveva qualche piccolo problemino, ma alla fine la parola trova sempre la maniera per arrivare. Questa mi sembra insomma una specie di forma di rassicurazione molto bella in questi tempi difficili. Radio24.it, il nostro sito, come sempre ve lo ricordo, per riascoltare poi la puntata, per scaricare il podcast. Padre Eterni è radio24.it se volete contattarci, se volete scriverci. Tutto ciò lo potete fare anche attraverso la nostra pagina Facebook, i Padri Eterni di Radio 24. Anche oggi tante storie di padri, parleremo di paternità da tanti punti di vista. E una settimana, quello che insomma ci abbiamo a vivere, che per alcuni padri sarà una settimana particolare, perché ricordiamolo Matteo, è la settimana della maturità, la maturità più strana di sempre, come abbiamo definito qui a Radio 24, dove vi ricordo che martedì sera faremo la notte prima degli esami, come ogni anno, ormai è una grande tradizione, 3 ore in diretta dalle 21 alle 24. Con me quest'anno ci sarà Eugenio, il cantante degli Eugenio in Via di Gioia, ma un sacco di ospiti. Insomma, quindi per certi padri sarà una settimana dove si ritornerà sui banchi, perché gli studenti andranno a fare l'esame in presenza, almeno loro. Ma infatti, ma per certi padri e per certi figli soprattutto. Insomma, io ho avuto la mia figlia maggiore che ha avuto l'esame di terza media la settimana scorsa. Insomma, devo dire che questa cosa causa sempre un certo genere di ansia, insomma, però sono passaggi indispensabili. Evviva! Evviva, sì. Partiamo e si parte prendendo una nave. Oggi arrivano 5 navi da terre molto lontane. Canta l'ultima nave Francesco De Gregori. Con queste note accogliamo il prossimo ospite. È un papà alle prese con un'impresa di quelle toste che ci piace raccontare, no? Perché ci sono padri, ci sono famiglie che a un certo punto decidono di cambiare vita, e questo cambio di vita passa per esempio dalla vendita di una casa, dall'acquisto o comunque trovare i finanziamenti per questa barca a vela nella quale caricare la moglie, caricare 3 figli e partire con destinazioni spesso ignote. Diamo il benvenuto a Stefano Barberis, appunto protagonista di questa bella avventura. Ciao Stefano, buona domenica. Ciao, buona domenica, buongiorno a tutti. Allora, intanto Stefano, insomma, questa avventura con 3 figli di 11, 8 anni, 8 e 11, perfetto, sì. E con i quali avete condiviso tutto? Con i quali abbiamo cominciato fin da piccoli a portarli in barca, nel senso che noi abbiamo sempre fatto vacanze, siamo conosciuti in barca mia moglie, con amici, una barca di 9 persone in 10 metri quadri, e poi piano piano abbiamo fatto le nostre vacanze con i piccoli che arrivavano, e quindi sempre in barca anche loro d'estate. Il classico prima mesetto riusciamo a fare, poi grazie ai congedi parentali che prendevo io, la mia paternità, siamo riusciti a farne anche 2, quindi sempre portarli in barca fin da piccoli. Ok, ma per esempio Iago, che ha 11 anni, è il più grandicello, come l'hai come l'hai spiegato che dovrà abbandonare gli amici, dovrà abbandonare i ritmi soliti e appunto mettersi nel viaggio? Quello è il punto più, diciamo, quello un po', non dico più critico, ma quello un pelino più che ci ha fatto pensare, perché lui in effetti inizia a essere più grandicello rispetto agli altri. Gli altri due, essendo più piccolini, tutto quello che fanno mamma e papà va bene in quella fase. Il più grande dice: io vengo perché mi piace andare in barca e tutto, però inizia giustamente a dire: però io non vedrò per un anno i miei compagni di classe e dello sport. Lui fa rugby a Milano, quindi tutti i suoi amici non li potrà vedere. quindi a questa fase qui. Cioè dire che però forse più la curiosità di partire, provare a fare un anno in giro, ha testato fortunatamente, diciamo, da questo punto di vista, la scuola a distanza, quindi sentire e vedere gli amici a distanza, quindi lì questa cosa comunque che potrà sentirli e vedere, e poi farà anche dei lavori con la scuola da remoto, quindi in realtà continuerà un po' a lavorare con loro, questa cosa diciamo che lo rassicura. E poi c'è la curiosità comunque di fare una cosa nuova, che a lui piace andare in barca, quindi diciamo che l'esplorare, andare in giro, sicuramente ha la meglio anche sulla distanza dai compagni. Stefano, ma questo non è solo un viaggio, è un vero e proprio progetto di vita, un cambio radicale, no? Voi avete addirittura venduto la vostra casa per mettere a punto la barca e fare tutti i lavori necessari, e avete calcolato di riuscire a vivere per un anno. Ma la domanda è, cioè, cosa farete poi? Cosa prevede il piano? Leggevo che fra i vostri progetti ce n'è uno molto bello, che è quello di trasformare la vostra barca in una specie di laboratorio galleggiante per progetti sociali e scientifici, coinvolgendo anche i vostri figli. Sì, sì, sì, l'idea è quella, nel senso che adesso noi partiamo per un anno, purtroppo non riusciamo a ipotizzare cosa faremo tra due, perché già il coronavirus ha rallentato tutto, e quindi è difficilissimo dire cosa faremo dopo un anno. Giustamente, venendo a casa, siamo riusciti a avere un piccolo bacino a cui attingere per un mese, per un annetto, e poi appunto dovremo fare questi laboratori, sia per continuare la scuola a distanza con i ragazzi, sia perché comunque poter sfruttare una barca come un laboratorio galleggiante, noi faremo analisi di microplastiche, avvistamento cetacei, siamo già in contatto con varie persone, biologi, che sono interessati comunque a provare a testare questi laboratori itineranti, quindi fare avvistamento anche non solo di microplastiche, anche di plastiche, perché in realtà anche nell'Atlantico navigando si trovano bottiglie di plastica galleggianti e anche tanto altro, quindi fare un po' una mappatura di quello che si può vedere in giro e dello stato attuale che c'è comunque nel mare, anche a grande distanza dalla costa. Quindi questa è un po' l'idea, sia perché comunque vorremmo appunto che i ragazzi la vivessero anche come, tra tante virgolette, come una spedizione, dove loro sono inviati sul campo e la scuola qui farà invece, riceverà i dati, le foto, i dati che noi manderemo, invieremo, e faranno una sorta di sensibilizzazione sul stato appunto degli oceani, del mare, e anche sul risparmio delle risorse, no? Certo, perché, no, sarà proprio una ricerca sul campo. Shibumi.it, questo è il sito per tutte le informazioni. Voi partirete a settembre e rimarremo sicuramente in contatto. Un'ultima domanda, Stefano, prima di salutarci: cambierà il tuo modo di essere padre una volta che sarete in barca? Credo proprio di sì, perché comunque diciamo che il vivere in spazi stretti, però hai una libertà totale, nel senso che un conto è stare appunto in lockdown in spazi stretti in casa, un conto è vivere in una sorta di guscio che va in giro, ma che ti consente una libertà totale, ti farà fare, credo, io spero, delle esperienze con i miei figli che inevitabilmente qui non avrei voluto fare in casa, con la vita di tutti i giorni, l'ufficio tutti i giorni, quindi credo di sì. Ma ne siamo certi, ma lo racconteremo in diretta, ci ritroveremo a settembre. Ciao Stefano, grazie, buona avventura. Ciao, ciao, grazie, ciao. Ciao. Noi ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua, con i padri eterni. Padri eterni. Padri Eterni, eccoci qua. Matteo, adesso ti porto come sempre in un campo che non è il tuo, è quello del calcio. Parliamo della partita del secolo, una partita che ha emozionato i nostri padri. Soprattutto, sai di cosa stiamo parlando, no? Lo so. Io dovevo ancora nascere, sarei nato un anno dopo, quindi insomma non sono stato testimone personale, ma è una partita che ha letteralmente cambiato in un certo senso la storia del nostro paese. Sarà il 17 giugno, il cinquantenario di Italia-Germania 4-3, erano i mondiali di Messico 70, è considerata la partita del secolo, e tante parole, e che parole per raccontare quella partita dal maestro dei giornalisti sportivi italiani Gianni Brera, e abbiamo il piacere di avere qua con noi oggi il figlio Franco Brera. Ciao Franco, buona domenica. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, è una partita che a te emoziona, è un appuntamento che ti riporta la tua infanzia. Ma mi ricordo la partita più che altro, me la ricordo come fosse l'altro ieri. Juan aveva una sua accolita di persone con cui guardava il calcio. Una di queste era il presidente del club del giovedì, sì, dalla data di riunione, e si chiamava Zio Ugo. Okay. Era detto Zio Ugo, era un industriale che presiedeva occupandosi di queste cose. Ecco, lo Zio Ugo purtroppo ci ha lasciato quel giorno lì. Ah. Ha avuto un infarto a seguito delle emozioni di quella partita, quindi dico, voglio dire, lo dico perché possiamo stare allegri, no? Ma per dare l'idea di cosa significava. Sì, c'erano i pronto soccorsi pieni. Mamma mia. Ma Franco, è vero che Gianni Brera con voi figli comunque non parlava di calcio? Assolutamente no. Era addirittura proibito, salvo con serie motivazioni, se c'erano motivi seri di parlarne. Io gli ho parlato di calcio una volta sola, chiedendogli qualche delucidazione sul suo atteggiamento verso Maradona, che secondo me gli piaceva tanto in quanto figlio povero e figlio di poveri che è arrivato a un successo planetario, capito? E quindi gli piaceva tanto. E lui mi ha detto: guarda che ieri sul giornale hanno pubblicato una pagina. Io dicevo: scusami, non l'avevo ancora visto. Ed ecco, no, non voleva proprio. Gli amici venivano messi in guardia perché potevano ricevere risposte taglienti su questo versante, diciamo così. Ma che padre è stato Gianni Brera? Cioè, nel senso, da bambino tu percepivi il significato di essere figlio di uno dei principali nomi del giornalismo italiano, o per te il tuo papà faceva, come per ogni bambino, insomma, con il suo, alla fine faceva un lavoro e basta, diciamo così? No, non percepivo l'enormità che poi si è rivelata Gianni Brera. Non lo percepivo. E anche come papà era molto molto assente. Lui aveva scelto di dedicarsi alla carriera per farci stare meglio a noi anche. Quindi una scelta dibattuta, al giorno d'oggi non si sa se avallarla o meno, ma in ogni caso lui faceva tutto quello che faceva per la famiglia alla fine. Lui è stato in Francia a fare il corrispondente, c'è stato un anno, è stato negli Stati Uniti a fare il corrispondente, c'è stato sette mesi, e io non mi sono accorto della differenza. Cioè, non era talmente lontano e talmente impegnato in cose importantissime così, che non faceva un po' come i padri longobardi, no? Si arriva alla mensa del padre con la maggiore età, prima via con le donne e i bambini. Certo. Certo. Più o meno lui aveva questa impostazione qua, non mancando mai in nulla, e questo sia chiaro, non è che lui per principio stesse alla larga, no, delegato la mamma, la professora, come la chiamava lui, perché la professoressa di letto. Beh, sì, era proprio... diceva che era la vera letterata di casa, era lei. Ma infatti so che anche non correggeva, ma leggeva spesso i pezzi, vero? Prima che venissero pubblicati, dava un'occhiata agli articoli del marito. Sì, ma era molto presente lei. Qui se c'è della genialità è comunque divisa due. Che bello, mio che padre bello. E mia madre, perché lui chiedeva sempre il suo parere. Franco, tu hai scelto un'altra strada, tu sei anche giornalista, sei traduttore, ma soprattutto sei musicista. Anche Gianni era un appassionato di musica. Vi siete mai confrontati invece, appunto, che su un articolo, su un pezzo musicale tu gli facevi ascoltare le tue cose? Sì, sicuramente sì, quando erano pronte per l'ascolto pubblico, cioè alla fine, non in marcia. Ok, e che padre era lì? Ma lui era interessato alla fine della fiera del quello che facevamo, quello che facevo io. Però appunto molto rarefatto, perché lui lavorava come una bestia, anzi come due, cioè una cosa da non credere. Non è stato possibile leggere tutta l'opera Omnia. perché era troppo. Bisogna mettere uno fino alla pensione a leggere il materiale per l'opera omnia di Gianni Brera. Scriveva veramente decine e decine di pagine, che lui chiamava cartelle ovviamente, come tutti i giorni. Quindi aveva una mole di... Sì, sì, di parole, di lettere, di terribile. Parole. Terribile, cioè noi non siamo riusciti a leggere tutto, per cui l'opera omnia non è omnia. Cioè... A questo proposito, secondo te che cosa potrebbe insegnare Gianni Brera ai giovani di oggi, anche da un punto di vista di etica del lavoro? Che cosa potrebbe insegnare? Che il lavoro va messo in testa a tutto, che è la cosa più importante che possiamo fare, la nostra ragione di essere al mondo, e questo è l'insegnamento che lui sottoscriverebbe subito. Ne sottoscriverebbe anche un altro abbastanza complementare, stai con gli amici, coltiva le amicizie. Sono le due anime, sono le due anime di il Gianni, lavoro, esatto, il lavoro e gli amici, certo. Franco, un'ultima domanda. In una bella intervista di un annetto fa su Avvenire, un'intervista di Massimiliano Castellani, ti ha chiesto qual era un'immagine che ti portavi nel cuore, no, di tuo padre, e tu questa immagine l'hai trovata in un derby a San Siro, dove eri andato portando i tuoi figli e lì hai visto anche tuo padre. Sì, certo. E hai visto che cos'era tuo padre? Ho visto che cos'era mio. Mi sembra di aver capito, perché lui veramente era atifoso, cioè non voleva avere a che fare con quest'ordine di problemi. Lui guardava il calcio, quello che gli piaceva di più o che gli dava di più spunti di racconto era quello che preferiva. Così per un certo periodo si è trovato a tifare per il Cagliari, perché c'era Rombo di Tuono, Riva. Uh-huh. E si è trovato a tifare per il Genova, a parte che erano comunque cose sporadiche, non è che mai un'immagine che mi è sempre rimasta, quando era nella navata della chiesa c'era lui e poi due gagliardetti, uno dell'Inter e l'altro del Milan. Ecco, questo la dice lunga sul tifo di Giovanni. Franco, grazie davvero per questo ricordo, per questa condivisione, per questa storia, no? Che, insomma, quando la storia familiare coincide con un pezzo di storia del proprio paese, credo che sia anche una responsabilità e un orgoglio, no? per i figli, per la famiglia. Grazie, buona domenica. Benissimo, allora grazie di avermi ospitato, salute. Ciao Franco, grazie. Ciao. Da adesso ci fermiamo, è il momento della pubblicità, il meteo, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i Padri Eterni, radio24.it, il nostro sito, da lì potrete poi scaricare il podcast, padrieterni@radio24.it, se volete contattare la nostra redazione. Matteo, adesso andiamo a toccare un tema che insomma spesso abbiamo sfiorato nel nostro programma, che è quello dei genitori separati, dell'essere figli di genitori separati. Sappiamo bene... No, le tante dinamiche che si attivano, sappiamo bene anche quanto sia difficile generalizzare, perché davvero ogni storia è una storia a sé. Ma certo, ma poi Fede, questo genere di difficoltà, no, che hanno i genitori separati, i padri separati, i figli, i padri separati, in questo lockdown, in questa pandemia, insomma, si sono esacerbati ulteriormente, quindi è un tema che mai come oggi direi è di profonda attualità. Tema che affrontiamo prendendo spunto da un webinar che si terrà il 30 giugno dalle 19 alle 22, un webinar intitolato Mio figlio mi rifiuta, e sarà i relatori saranno Marco Pingitore, che è psicologo e psicoterapeuta, e Alessia Mirabelli, che è psicologa. MarcoPingitore.it il sito per tutte le informazioni. Diamo proprio il benvenuto a Marco, che è qua con noi. Ciao Marco, buona domenica. Ciao, buona domenica, buongiorno. Allora, Mio figlio mi rifiuta, un titolo che che contiene già tutto, no? Che contiene il dramma, la sofferenza, il non riuscire a crederci quando tuo figlio ti rifiuta, per un genitore, per un padre, per una madre anche, credo che in questo caso sia veramente difficile differenziare, penso che sia uno dei dolori più forti. Assolutamente sì, e potremmo definirlo un dolore devastante. Ci sono tantissimi casi in Italia di separazioni in cui divorzi, queste separazioni sfociano poi purtroppo con un rifiuto talvolta netto e categorico del figlio di incontrare uno dei due genitori, quindi insomma sicuramente veramente molto molto doloroso. Marco, ma ti faccio subito una domanda diretta, ma davvero un figlio può rifiutare un genitore o è la percezione che il genitore ha? Allora sì, no, c'è proprio un rifiuto, a volte troviamo nei casi più complessi un rifiuto netto, ci sono casi in cui un padre o una madre non riescono a vedere il figlio da anni, non da mesi, da anni, sia vederlo, frequentarlo, sia addirittura contattarlo, cioè quindi proprio cessa qualsiasi tipo di contatto. E quindi il contenzioso legale va avanti nel tribunale da anni, ci sono casi 4, 5, 6 anni, consulenze tecniche d'ufficio, perizie per capire il motivo di questo rifiuto, e talvolta si arrivano a delle situazioni veramente in cui non si può far più niente, perché anche perché il bambino poi cresce negli anni, cresce diciamo nel contenzioso civile, cresce sicuramente anche aumenta il grado di rifiuto, e ci sono dei casi realmente dove il genitore, anche padri, che perdono qualsiasi contatto con il figlio, e non si può fare altro in alcuni casi che accettare questa situazione, purtroppo. Ma Marco, infatti direi che è inutile non nascondersi che nella maggior parte dei casi, in caso di separazione, a subire questa alienazione, questo rifiuto, sono soprattutto i padri, e cioè, non lo dico come accusa, è una semplice constatazione. Allora, per i padri che si trovano in situazioni difficili e che possono vedere i figli magari solo il fine settimana, una settimana alterne, cioè come riuscire a mantenere una relazione sana nonostante le difficoltà? C'è un suggerimento in particolare che potresti dare? Allora, un suggerimento da un punto di vista, mi permetto, giudiziario, legale, è già dalle prime fasi di separazioni pretendere il massimo della frequentazione. Purtroppo ci sono dei casi in cui magari anche così mal consigliati, molti genitori, molti padri tendono a chiedere il minimo di frequentazione, cioè il classico weekend alternato e i due giorni prasettimanali, proprio perché c'è questo luogo comune, tanto il figlio verrà collocato presso la mamma, il tribunale decide così, la teoria della maternal preference, eccetera eccetera, e quindi è già lo stesso genitore che punta al minimo. Io ai miei clienti in fase di separazione dico sempre che bisogna puntare sin dall'inizio al massimo, quindi già in udienza presidenziale, cioè quindi non dico tempi paritetici, ma equipollenti di frequentazione. Poi ovviamente dipende dall'età del bambino, da altri fattori, però in linea teorica già da lì, dall'inizio dell'iter del procedimento bisogna puntare al massimo. Poi questo ovviamente deve essere accompagnato da tutta una serie di modalità anche comunicative, relazionali del genitore, del padre nei confronti del figlio. Molte volte ci sono delle situazioni in cui molti padri tendono un po' a mollare la presa, tendono un po' a interpretare il genitore cosiddetto ludico, quello del sabato e la domenica che porta i figli al McDonald's, al parco, però poi a livello qualitativo il tempo non è un granché, è solo una questione quantitativa. Molti genitori pensano, io siccome ho due giorni a disposizione, allora cerco di far divertire mio figlio, di portarlo. Sì, è una delle trappole in cui noi padri poi siamo campioni del mondo nelle catene delle trappole, figurati in questa. È una delle trappole, sì, la separazione è pieno di trappole mentali. Pieno. Marco, pieno. Marco, allora ricordiamo questo webinar Mio figlio mi rifiuta il 30 giugno. Marcopingitore.it per tutte le informazioni, però rimaniamo in contatto. Io invito anche gli ascoltatori, i padri, anche se sono padri che vivono situazioni simili, se hanno domande, se hanno richieste, se hanno voglia di instaurare un dialogo attraverso il programma anche con te, di scriverci padreterni@radio24.it oppure attraverso la nostra pagina Facebook, perché magari in una delle prossime puntate torniamo sull'argomento anche con temi, argomenti ancora più specifici. Va bene? Sì. Perfetto. Perfetto. Ciao Marco, grazie, buona domenica. Grazie, buona domenica. Ciao, ciao, ciao. Ciao. E adesso Matteo, una di quelle storie che, insomma, che ci piace narrare, insomma tu con le mani sai fare un po' di cose, come sei messo a capacità di riparazione scarpe? Sono del tutto negato, le mie mani funzionano solo sulla pasta della pizza. È vero, bravo questo, e lo sappiamo bene. Sul giornale.it un titolo che insomma ci ha veramente incuriosito, io calzolaio su YouTube grazie alle clip di mio figlio. Quello che ci racconterà fra pochissimo il protagonista è la storia del lockdown, è la storia di tanti negozi, tante imprese che appunto tra i mille problemi hanno tentato di reinventarsi, e a volte le nuove generazioni hanno dato la giusta intuizione. Diamo il benvenuto ad Alberto Cisamolo, titolare del calzaturificio Linea Nostra. Ciao Alberto, benvenuto. Ciao, siamo ciao a Isola della Scala, in provincia di Verona. Esatto. Allora Alberto, cosa ha combinato tuo figlio? Ma niente, è stato bravissimo, anche perché siamo la classica bottega del paese e purtroppo con questo problema grosso che è sorto ci siamo bloccati come tutti. E allora di giorno, anche per far passare il tempo e anche per come mia caratteristica cerco sempre di dare nuove idee, ci siamo inventati questi video tutorial dove facciamo vedere piccole realizzazioni di piccoli portamonete, svuotatasche, tutti oggettini in pelle, piccola pelletteria che realizziamo noi, e l'idea era di comunicarla in maniera anche innovativa, soprattutto nel fare una comunicazione artigianale, ma anche di fare un recupero del materiale che quando si lavora la scarpa c'è il taglio e come tutte le cose vi è fatta una parte di scarpe. Detta così è una brutta parola, però è pelle bellissima che purtroppo per le dimensioni che ha non avrebbe più destino nella scarpa, e abbiamo dato nuova vita a questa pelle, ecco. Alberto, ma in questo senso, no? Cioè, il mondo digitale, diciamo così, può essere un'idea per cominciare a uscire dalla crisi? Cioè, lo chiedo proprio a te che sei una persona che lavora con le mani, no? Sì, sicuramente, perché adesso le nuove generazioni lo usano, sono molto bravi nell'usare queste nuove tecnologie. Dopo adesso mio figlio più grande, Lorenzo, che è quello che ha fatto il video, a 12 anni, sta prendendo proprio cerco di andarci molto cauto da papà, proprio nel farlo non abusare di questi strumenti. Però è giusto che inizino a impararli, perché se usati bene, io dico sempre, sono grandi opportunità, ecco. No, sto pensando Alberto, che scusami, perché... Sì. So, tu fai una di quelle professioni dove il passaggio anche delle competenze dal maestro all'allievo c'è, no? Ma come tanti lavori artigianali. Quindi io immagino che ci sia anche il desiderio di un padre di insegnare il mestiere al proprio figlio. Tu ti sei trovato invece con tuo figlio che insegnava una cosa a te, cioè sei veramente ribaltato il mondo. Lo so, però cerco da genitore, ti dico, il desiderio è proprio quello che un domani possa continuare questa mia passione, questo mio lavoro, però lo faccio in maniera molto morbida, perché ne ho due di figli, Lorenzo che è quello più grande, Leonardo, possano scegliere liberamente la loro futura professione, perché ritengo, io lo faccio ben volentieri questo lavoro, ma perché ho la passione, ma come tutti i lavori, questo è un discorso che non è solo nel calzolaio, ma deve essere fatto con passione il lavoro. Allora, se non fai con passione, per conto mio, questo è il mio pensiero, le ore non ti pesano, ecco. Alberto, ma come si trasmette la passione secondo te? La passione si trasmette sicuramente trasmettendo passione. perché sicuramente se in casa il papà o la mamma si lamentano dei propri lavori, che certamente a volte ci può anche stare, però non sto dicendo che sia, però sicuramente il bambino è una spugna e assorbirà determinate riflessioni, ecco. Vabbè, insomma, la testimonianza, l'esempio, insomma, e poi è vero, la passione si trasmette con la passione, credo che sia veramente, sembra una frase fatta, sembra una frase banale, ma è una frase vera. Alberto, grazie davvero, salutaci tuo figlio, insomma, porta i nostri complimenti. Mi saluto tanto anche lui, grazie. È orgoglioso di questa cosa che ci avete chiamato, Benissimo, ciao Alberto, grazie. ciao. Buona domenica, ciao a voi. Grazie a voi. Noi ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua, con i Padri Eterni. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre, al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe. Un unico partner, mille risorse. Padri Eterni. La puoi vivere tutto in un solo momento, è una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco che finisce se senti tutti vissi, felici e contenti. Ogni favola è un gioco, canta Edoardo Bennato. In questo finale di puntata andiamo proprio a giocare. Matteo, lo facciamo con un amico dei Padri Eterni. Diamo il benvenuto, il ben ritrovato a Davide Nonino, papà del canale YouTuber GBR Giochi per Ragazzi e Bambini. Ciao Davide, buona domenica. Ciao, buona domenica a tutti, ciao. Allora Matteo, so che in queste settimane hai passato molto tempo con Davide, vero? Sì, assolutamente. Davide, guarda, io ti devo ringraziare personalmente perché tu sei stata una delle nostre salvezze durante il lockdown. Cioè, le mie due figlie minori sono appassionatissime dei vostri video. Infatti, guarda, se fossi una brutta persona per aumentare le mie skill padre, ti chiederei di salutarle in diretta, ma insomma, eviterò. Grazie, grazie. Siamo felici di aver potuto dare qualche idea di gioco, insomma, in questo periodo un po' così. Allora Davide, ricordiamo che insomma voi avete questo canale YouTube che è uno dei più amati da bambine e bambini e dalle famiglie, dove proponete giochi. Ci sei tu, c'è tua moglie, ci sono Nicolò e Matilde, insomma siete voi quattro la squadra giocosa e giocante. Lo fate normalmente, lo fate ormai da più anni, no? Adesso non ricordo bene. Sì, da 8 anni. E credo che questo sia stato un momento particolare anche per voi e anche per il vostro canale YouTube, quello del lockdown. Sì, è stato un momento particolare perché dal punto di vista come genitore, come abbiamo vissuto tutti, come padri e madri, anche perché ci siamo trovati a dover intrattenere i nostri figli e magari anche in maniera più educativa, anche perché abbiamo molto più tempo a disposizione, quindi magari il tempo anche per le, magari sì, si può fare sciocchinate per tutto il tempo, ecco, quindi ci siamo trovati a dover organizzare delle giornate, insomma, ecco, essere un po' anche animatori se vogliamo. E quindi abbiamo avuto anche molte richieste da parte dei genitori su attività da fare e che potessero essere fatte anche in un contesto di lockdown, quindi non è che posso andare a prendere giocattoli anche perché i negozi sono chiusi, quindi non posso andare a strutturare cose particolari, e quindi abbiamo cercato, sia per noi che soprattutto per chi ci segue, di trovare delle attività giocose che fossero fattibili con materiali in casa e che fossero secondo noi soprattutto dinamiche, no? Perché alla fine ok colorare, ok fare altre attività, però c'è bisogno anche di muoversi, no? Quindi molti hanno un giardino, molti non potevamo uscire, e abbiamo cercato anche di proporre dei giochi che avessero un po' di dinamismo, perché c'è spesso anche giustamente bisogno di muoversi. Davide, adesso uscirà questo nuovo vostro libro, il nuovo giocalibro delle famiglie GBR. E il libro, devo dire, è molto bello perché è pieno di utili consigli, di test, di cose divertenti da fare, da che tipo di giocherellone sei, a come organizzare una festa, perfino ai consigli di cucina. Ora, posto che i vostri figli, no, Nicola e Matilde, sono protagonisti dei vostri video, quanto sono stati coinvolti anche nella realizzazione del libro, se lo sono stati? Beh, lo sono stati siamo immersi nel gioco quotidianamente, quindi lo sono stati anche loro. Per esempio, nel nuovo capitolo che abbiamo fatto dedicato alle sfide col corpo, le Body Challenge, che sono un po' il nuovo capitolo di quest'anno dei giochi da viaggio, perché se non abbiamo niente con cui giocare, con cosa possiamo giocare? Con il nostro corpo. E sono sfide che siamo inventate o facciamo abitualmente noi a casa per passare 2 minuti, o mentre andiamo a dormire nella nostra routine prima della nanna, o la mattina quando ci svegliamo, eccetera. Oppure col capitolo delle barzellette siamo entrati, diciamo, nella fase barzellette che credo tutte le famiglie vivano, e Nicolò si è fissato a inventarle, ha inventato un metodo per inventarle, e allora mi ha fatto un capitolo che non era previsto dedicato a questo, in cui oltre a un elenco di barzellette c'è anche il suo metodo per inventare, no, i 3 metodi, scusate se no mi sgrida, per inventare le barzellette, ecco. E quindi sì, sono protagonisti, anche le ricette stesse sono quelle che piacciono a loro e che condividiamo a casa, quindi non poteva mancare il tonno, che mio figlio non può vivere senza tonno, quindi sono coinvolti, ecco, senz'altro, fino alle fotografie che insomma quest'anno abbiamo realizzato noi perché non c'era altro modo, e quindi proprio anche nelle idee di facciamo questo, facciamo quest'altro, insomma abbiamo cercato di giocare anche in questo, e tra di noi abbiamo imparato anche tante cose. Davide, adesso insomma magari ci svegli anche un paio di chicche del libro, se c'è qualche suggerimento, se c'è un gioco che vuoi condividere con noi, però prima volevo chiederti questo, faccio proprio la domanda al padre, no? Tu sei un padre giocherellone, sei un padre allegro, sei un padre animatore, così ti vedono i tuoi figli, così ti vedono i figli degli altri a casa, ma tu come la guadagni la tua autorevolezza? Cioè, a volte riesci a essere preso sul serio dai tuoi ragazzi? Ma io credo che l'autorevolezza arrivi dalla competenza, tra virgolette, anche se spesso i mestieri creativi insomma non vengono molto giudicati per competenza, però nel senso che non so, io sono una persona in casa, o comunque mi è capitato sempre nella vita, nel lavoro, che ti chiedono, ma sarà capitato anche a voi, no? Cosa facciamo adesso? Che idea ti viene in mente, eccetera? E addosso questo fardello di responsabilità che adesso dici, come in famiglia, no? Magari c'è quello che si occupa dei viaggi, no? Ok, papà, dove andiamo adesso? Oppure, ehi mamma, cosa facciamo? Ok, anche quello che ha questa responsabilità. E secondo me, in base alla sua bravura, perché ha delle passioni, perché è capace di organizzare le cose, perché è quello che va a fare la spesa sempre, ed è lui l'eroe della spesa, ecco, anche cose semplici quotidiane, io credo che poi l'autorevolezza la guadagni appunto perché sai fare bene quelle cose lì, e quindi ti seguono e si fidano, anche perché quando proponiamo i giochi o li attiviamo, eccetera, sono pensati per loro, non vengono delusi, non sono frustrati perché gli propone delle cose che sono al loro livello, e quindi anche quando facciamo i compiti poi questo vissuto lui lo vive, sa che è un momento serio e sa che quello che gli propongo è per il suo bene, quindi dopo le cose, devo dire, girano e funzionano. La chiave alla fine è sempre l'esempio e la competenza, che può essere anche competenza, sembra sciocco di andare a fare la spesa, ma alla fine è nel quotidiano che si costruisce, credo, l'autorevolezza genitoriale. Davide, guarda, l'autorevolezza te la regalo io, facendoti una delle domande che le mie figlie mi hanno chiesto di farti, cioè mi hanno detto se puoi chiedere a Davide di insegnarti ad essere un bravo papà. Ora, i figli hanno delle uscite incredibili. Sì, no, esatto, cioè, per noi padri imperfetti, insomma, è un casino avere a che fare con te, Davide, insomma, quindi. No, Davide, ma ti chiedo, in questo senso, il gioco può essere un linguaggio che ci può aiutare ad essere dei papà un pochino migliori, forse per arrivare meglio ai nostri figli? Ma io credo di sì, perché per esempio ci sono conosciuto dei papà che ad esempio non sono abituati a, mi hanno visto giocare per terra, dicono: ah, ma tu ti abbassi sul pavimento e ti siedi per giocare. Sì, faccio. No, io non mi siedo, no, cioè, mi siedo sulle sedie, fa, no? Ecco, io credo che anche gesti così piccoli, e quindi che attraverso il gioco, che con la competizione che tutti hanno dentro il cuore, chi più o meno, chi più e chi meno, alla fine si possa riuscire a raggiungere un livello di comunicazione che poi permette di costruire un rapporto più vero. Ecco, per cui io credo che il gioco, io dico sempre, il gioco abbatte le barriere, no? Quando giochi sei te stesso, ti dimentichi di essere un dirigente, di essere un operaio, di essere un meccanico, eccetera, quindi ti togli tutte le costrizioni mentali che la vita quotidiana ci mette, perché siamo un po' incasellati per forza di cose, nei mestieri, nelle abitudini, e secondo me quella è la cosa migliore. Per cui spesso anche io adoro quei fan, diciamo, che a 12-13 anni mi dicono: ormai sono grande, Davide, non ti seguo più, però ogni tanto ti guardo, perché, un classico, esatto, perché voglio giocare ancora un po' nella mia vita. Io dico: grande, anche se a scuola mi prendono in giro che vi guardo. No, è quella fase lì, è certo, è proprio la fase di passaggio. Allora ricordiamo il nuovo giocalibro della famiglia GBR, edito da De Agostini. E, Davide, proprio in 30 secondi, dai, consigliaci un gioco volante da sperimentare. Guarda, un gioco che si può fare anche su Zoom o su WhatsApp, anche in FaceTime, eccetera. La body challenge, il duello di sguardi, ovvero chi si guarda negli occhi, il primo che sbatte le palpebre perde. Si può fare anche in chat, si può fare anche in videoconferenza, è sciocchissimo, però è carino, perché poi cerchi di fare facce strane per ingannare quell'altro. E comunque, se si impalla al computer, no, che rimane fissa la tua immagine, hai vinto questo. Bravo, hai già i trucchi, vedi, questi papà le sanno tutte. Ciao Davide, grazie mille. Ciao ragazzi, ciao. Buona domenica, ciao Davide, ciao. Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie come sempre a voi per essere stati in nostra compagnia, un grazie a tutta la squadra di Radio 24, Valeria Bernardi alla parte tecnica, Danilo Di Trani che con noi ha scritto la puntata, padreterni@radio24.it se volete contattarci, radio24.it il nostro sito da dove poter scaricare il podcast. Ciao Matteo, buona settimana. Ciao Fede, buona settimana anche a te. L'appuntamento è a martedì prossimo, vi aspetto, è dalle 21 con La notte prima degli esami, 3 ore in diretta per vivere la maturità più strana di sempre. Padre Eterni invece torna domenica prossima alle 11. Ciao! Ciao!